Italia in controluce. Narrare la cronaca, questo è molto alto. Italia in controluce, due edizioni quotidiane realizzate dalla redazione di Radio 24 e condotte e coordinate da Daniele Biacchessi. Cosa mangiano i boss della Camorra? Cosa fanno mangiare soprattutto a noi? Con questo reportage andiamo a tavola con i capoclan dei casalesi, con quelli che organizzano gli affari illegali e gli omicidi nel territorio della Campania. Raffaella Calandra. I boss napoletani che sono legati anche alla cucina tradizionale, quindi il ragù oppure alla margherita, la pizza, quelli siciliani, il pesce, sempre con la bottiglia di champagne pronto nel frigorifero. È la grande abbuffata dei boss. Si nascondono in buchi oscuri, parlano in codice, sono disposti quasi a rinunciare ad una vita per sfuggire alla cattura, ma non ai piaceri della tavola. Capita così che l'odore della pasta al forno o del pesce fresco conduca fino ai bunker di super latitanti e fino alla loro ultima cena, per dirla col titolo del libro di Peppe Ruggero. Il grande boss di Lauro, che è stato arrestato perché aveva questo vizio immancabile di avere almeno la domenica sempre il pesce fresco, la pezzogna, che è un pesce prelibato, proprio seguendo la governante nella pescheria solito di Scampia, che sono arrivati ad arrestarlo. Oppure Setola, il boss latitante del gruppo di fuoco dei casalesi, che invece aveva un vizio, quello di mangiare la carne prelibata argentina, l'asado, per cui chiamava i suoi luogotenenti per farsi andare dalle macellerie privilegiate per comprare questa carne argentina. Si riempiono la pancia, ma contemporaneamente pensano a rimpinguare le loro casse con affari fatti di cibo. Dall'antipasto al caffè, il pranzo della Camorra è servito. Nella carne e nel pesce soprattutto, la criminalità a tavola fa il suo business, scrive Ruggero, che calcola in 70 miliardi di euro l'anno il giro d'affari. La macellazione clandestina della carne è stata sempre dei grossi clan, soprattutto la provincia di Napoli, dei casalesi, l'interesse privilegiato, dove c'è anche un guadagno economico immediato. Nell'inchiesta che sono andato a svolgere ho ascoltato dei personaggi in cui mi dicevano che un bovino dopato pesa circa 100 kg in più di un bovino normale. Quei 100 kg in più significa sul mercato un guadagno di 400 euro a capo. Oppure la carne di cavallo, che sembra un settore che era minimamente non controllato, cavalli utilizzati nelle corse clandestine, dopati per arrivare al massimi guadagni nelle gare agonistiche, che poi dopo, non servendo più, venivano macellati e arrivavano sulla tavola degli italiani. Che cos'è la fettina di Sandokan? Nella zona del Casertano, Sandokan, gli schiavoni, il clan dei casalesi, hanno il controllo totale, non c'è una macelleria che non è sotto il loro controllo, sia in termini di carne dopata, macellata, quindi non di ottima qualità, sia di carne prelibata che però è costretta a vendere e a pagare il pizzo ai casalesi. Negli allevamenti, come nelle campagne della cosiddetta Terra dei Fuochi, tra le province di Napoli e Caserta, Ruggero aveva girato anche il suo documentario Beautiful Country sui rifiuti tossici e l'inquinamento nelle campagne, quelle stesse campagne da dove è partito il potere dei casalesi, in origine allevatori di bufale. Non c'è bufala che non conosca carabiniere o camorrista, scherza l'autore con una precisazione importante. Se loro Bianco ha pure arricchito i clan e talvolta è stato pure sbiancato con la calce, scrive, la maggior parte delle mozzarelle sono in mani sicure. Ma non c'è momento della grande abbuffata a cui i boss rinuncino. A noi altri napoletani toglieteci questo poco di sfogo fuori al balcone. Già. Io per esempio, professore, a tutto rinunzierei tranne a questa tazzina di caffè presa tranquillamente fuori al balcone dopo quella mezz'oretta di sonno che uno si è fatto dopo pranzo, sapete? Quel poco di sentimenti. Scusate. Anche il gusto del caffè è passato dalla celebrazione di Edoardo De Filippo all'imposizione dei clan. Nel libro io parlo di un'inchiesta avvenuta in una realtà in provincia di Napoli, a Portici, dove il bar centrale era la marca di caffè imposta dalla Camorra. Ha avuto la conferma pochi giorni fa, quando un'inchiesta della magistratura ha portato all'arresto di boss dei casalesi che imponevano nella provincia di Caserta, in vari comuni, la propria marca di caffè. Una marca di caffè, ha detto stesso dalle intercettazioni, che era anche di pessima pessima qualità e che stessi i bar erano costretti a prendere, perché lì si vede il potere della camorra, pessima qualità che non era presentabile ai clienti ma che doveva essere presa perché era un modo per avere il controllo sul territorio e dove c'erano enormi guadagni. Nell'ultima inchiesa basta pensare che ai casalesi un chilo di quella marca di caffè veniva a costare 8 euro, la vendevano a 50 euro, avevano un guadagno netto di circa 4.000 euro al giorno in tutti i vari bar della provincia di Caserta che imponevano. È un modo per imporre il pizzo, dove inconsapevolmente il consumatore, nel momento in cui va a prendere il caffè, nel momento in cui paga, paga doppiamente, paga un prodotto che è di pessima qualità e contribuisce involontariamente ad arricchire le casse dei casalesi. Ma al menù della camorra Ruggero alla fine contrappone quello della legalità, dai paccheri agli anelletti, passando per friselle e gamberoni, tutto a base di coltivazioni di terreni confiscati alla camorra. Italia in Controluce, prima edizione per quest'oggi 1 novembre. Ricordo Radio 24, Italia in Controluce su Facebook, il gruppo dunque su Twitter in Controluce, la mail controluce@radio24.it. Ringrazio Filippo Auregi per l'edit nel montaggio. Torniamo oggi, anche se è festa, 13:30 su Radio 24 con nuove storie.